Sei un fascistello di merda. Ma che fascello, sta, ma smetti, non dire cazzate. Sei ignorante come una capra. Esatto. Sei capace di pubblicare libri con mia sorella. Non vali un cazzo, sei un strozzetto mal cacato. Ma cosa c'entra? Ma cosa c'entra? Bravissimo. Ma che ottimo. Cazzo dici? Ottimo. La zanzara. Tutto il resto è gioia. No, non ho detto gioia. La massoneria deviata, fottuta, mafiosa, andranghetista, fa tutto il cazzo che vuole per romperti il cazzo, ok? Tra le live, tra la zanzara, tra i miei trascorsi, tra le chiamate agli sbirri, tra questo, tra l'altro, le denunce, questo e quell'altro, magari gli illuminati mi conoscono proprio perché gli parlo, perché mi seguono il canale YouTube. Cioè, va a sapere, per me la metà di voi sono illuminati, ok? Perché solo un illuminato può seguire le demone scimmie, va bene, l'abbiamo capito, però ragazzi, cioè, francamente, che la massoneria mi rovini la vita, che guadagnato miliardi di euro, milioni di euro, e non mi hanno dato un cazzo, 200 euro cagati, ma non dato. Oh, grande Cruciani, anche tu mi hai aiutato a smettere di drogarmi. Sono pulito da 6 mesi quasi. Non tocco cocaina e crack da 6 mesi. Sono veramente un'altra persona. Ho salvato qualche dente. Vi ringrazio, grazie a tutti. Grazie a tutti, ciao, ciao, arrivederci. Sento le voci, sì, mi sento chiamare. Dalle mie fantasie, dal profondo del mare. Dalla TV, dalle porcherie, dei sogni inconfessabili. Sento le voci, sì, mi sento chiamare. Dalle mie fantasie, dal profondo del mare. Dalla TV, dalle porcherie, dal silenzio dei sogni inconfessabili. Demone scimmia! Demone, perché ha chiamato oggi? Com'è la situazione lì in comunità? Ma solita merda. Un dottore chiamato un dottore. Cosa? Qui c'è un ragazzo che muore affogato nella palude. Quando? Del Nazional Popolare. Papi! Non vedo la lucetta rossa. Forse dovremmo avere in video collegamento il professor Meluzzi. Come mai? Aspetta, professor Meluzzi, buonasera. Buonasera. La ringrazio di cuore per la sua cortese disponibilità. È un piacere parlare con lei, professore. Piacere tutto mio. Io e lei abbiamo qualcosa in comune, professore. La faccio ridere. Abbiamo qualcosa in comune nel senso che c'è una incomprensione fra me e lei con un certo David Parenzo. Siccome lei deve sapere... Non parliamo di stupidaggini. Mi ha denunciato. Personaggio che non merita neppure la nostra citazione. Sì, perché... Intanto lo chiamerei David Parenzo Inzevi, perché, come dire, bisogna partire, come dire, dai rapporti di parentela per capire poi certe carriere. Ma chiudiamo qui questa questione. Stendiamo su questo un velo pietoso. Quindi, siccome sono stato querelato da quel signorino, logicamente andremo in dibattimento. Se lo vede in tribunale o se vede i suoi avvocati, li saluti e gli dica di vergognarsi. Sì. Lo farò sicuramente, professor Meluzzi. Spero che quereli anche me. Andiamo, Salvatore, con prossimo disco. Ma guarda, sei un gran figlio di puttana. Sei un gran figlio di puttana. In diretta da via Monterosa 91 20 149 Milano, il sottoscritto, eccoci qui. Da casa sua a Roma, solitamente, non so se il periodo è passato, protetta da agenti del Mossad. David Parenzo. Buonasera cari amici, colgo anche l'occasione subito per darvi una notizia, notizia importante. Ho sentito già da ieri circola questo audio di questa intervista che sì, Meluzzi sì, ha rilasciato all'emittenza di Spatalino, di questo Spatalino. C'è da dire che quando due cervelli così si mettono insieme si salvi chi può, quando due cervelli simili si uniscono in una si salvi chi può. Dopodiché già ieri sera alle ore 21, già ieri sera alle ore 21 terminata la trasmissione della Zanzara, e sentito l'audio, ti piace l'ablativo assoluto, sì, che ho fatto, sì, e sì, sentito l'audio, sì, sentito l'audio, dato, ho mandato, già contattato, sì, molto bene, gli studi legali di Padova, uno peraltro dovresti anche conoscerlo, ma non faccio, sì, il nome qui perché magari è quello di tuo fratello, assolutamente parlo, vai, di un altro anche, vai, di un altro studio legale, parlo anche di un altro studio legale con il dottor Cinetto, l'avvocato Cinetto eccetera, e è stato già dato, è stato già allegato, diciamo, alla denunzia che c'è già nei confronti di Spatalino, quindi abbiamo arricchito, abbiamo arricchito la denuncia che è già stata fatta nei confronti di Spatalino con anche questo nuovo materiale che è arrivato ieri fresco fresco, quindi grazie. Scusa, ma quella è una considerazione sbagliata ovviamente di Meluzzi, che dice che tu hai fatto carriera grazie, sì, diciamo, questo vuole intendere il dottor Meluzzi, diciamo, sì, no? Sì, il dottor, sì, Meluzzi, sì, vuole, sì, intendere questo, che tu avresti fatto carriera, così si spiegano le carriere. Effettivamente è un'accusa, sì, grave, andando a vedere. Un'accusa molto grave, e credo che con i soldi che prenderò mi pagherò una vacanza post-Covid. Penso, voglio fare 10 giorni tra New York e Las Vegas. Penso che riuscirò a farlo, quindi grazie, e la vacanza sarà intitolata a Meluzzi. Non ho capito se vuoi querelare Meluzzi oppure Spatalino. No, ho parlato con questi studi legali, tu in particolare uno lo conosci, adesso non mi ricordo il nome, ma in particolare Cinetto, un avvocato... Cinetto, vai, Cinetto avanti, sicuro, sì, poi c'è anche un altro, dai, non mi ricordo avanti, veramente. Avanti, comunque, niente, ovviamente verranno in solido, verrà querelato anche Meluzzi, quindi questa doppia, un ma binario c'è, ma già. Ma perché? Perché ti hanno dato del raccomandato, dici, perché ti hanno dato del raccomandato? Sì, assolutamente. Cioè, lo può dire, se dimostra che io, se lo dimostra, sono pronto, figuriamoci. Ma siccome, vabbè, come tu usciamo, sai, usciamo fuori così, da queste cose. Usciamo qui, da qua. Usciamo, sì, da queste, sì, cose qui. Andiamo, sì, invece, sì, oggi ho visto un collegamento. Dove andiamo oggi? Oggi ho visto un collegamento. E la furia del popolo, la pressione popolare ti ha costretto alla ritirata. Ho visto un collegamento dalla trasmissione Tagadà in un ambiente chiuso, anonimo, in un ambiente chiuso, anonimo, con la parete bianca, ambiente chiuso, anonimo, con la parete bianca, ambiente praticamente nullo, ambiente quasi ospedaliero, non sei più sul terrazzino, sul terrazzo. Nessuno, la pressione chiuso, popolare, era... la pressione, no, popolare ti ha costretto alla ritirata. Mi sono messo in un'altra stanza perché i bambini stavano facendo lezioni. Più andare, non, potevo... non vuoi più andare sul terrazzo, posso... diciamo la verità. Ma di cosa mi devo vergognare? Non ho rubato a nessuno. Non vuoi, no, però non vuoi più andare per motivi di immagine. La pressione popolare, mentre, no, la gente muore di fame, rumore, c'erano mentre, i bambini che giocavano, mentre professionisti sono sull'astrico, non sanno come ricominciare, tu hai voluto, come dire, dare un'immagine più sobria, un'immagine, ma più nessuna immagine, anonima, semplicemente con una parete bianca, come se fossi una casa di periferia, come se fossi una casa di periferia, invece no. Ma cosa, ma che messaggi devo lanciare? Io mica mi devo candidare, non me ne frega niente. Niente, vabbè, a me, quali messaggi devo lanciare? L'unico messaggio che lancio è quello di mandarti a fare in culo, perché ogni sera è un disastro da trasmissione. L'unico messaggio che posso lanciare è questo. La domanda che posso fare all'azienda ancora è come mai una persona come te, che ha la qualifica inviato, non è mai andato da nessuna parte. È un'altra domanda che mi posso fare. Queste sono, beh, cioè, uno, se è inviato, andrà da qualche, ma parte, cosa, no? L'inviato, sei fissato da settimane, è abituato su questa cosa, sì, qua, perché mi manda i matti questo. Il fatto che uno abbia la qualifica inviato, ma e il massimo che te fa è inviare a quel paese le persone che chiamano qua. Questa è una cosa che a me tecnicamente mi manda i matti, manda i matti. Per non parlare del fatto che tu hai l'assicurazione sanitaria pagata, peraltro, perché che... essendo giornalista professionista, sei... come me, c'entra? Ma con un contratto diverso, hai la casa Agit, non... quindi la gente deve sapere che tu ogni volta che vai dal medico non paghi nulla, non perché vero, la cassa dei questo giornalisti ti, ma rimborsa, sono soldi che cassa, pago io, che invece mi pa... no, te lo paga l'azienda, te, io me lo pago io. Andate a verificare, ascoltatori. Vabbè, lui, Mario Giordano, Del Debbio, tutti questi. Guarda che è una cosa, guarda, questa trasmissione è una cosa pazzesca. Tutti questi populisti giù, hanno giù il microfono, giù il microfono. Allora, Ragazzi, però, al di là del Covid, dell'ottimismo che c'è, dei dati, eccetera, qualcuno dice ne siamo già usciti, qualcuno dice il caldo ha contribuito, poi si parla ancora della storia del vaccino che forse non serve, di altre cose ancora. E c'è una notizia fondamentale. Una notizia fondamentale. No, fermo, una notizia fondamentale. L'11 luglio dell'anno scorso investì e uccise con il suo SUV i due cuginetti Alessio e Simone D'Antonio, terribile, che stavano giocando davanti all'uscio di casa. E cosa si c'è parla da dire? Di vittoria in Sicilia. Certo, questa è una storia terribile. Cioè, oggi, una storia, oggi, cosa c'è da dire? Rosario, da polemica, zitto, è una tragedia, oggi Rosario Greco, che quel giorno guidava ubriaco e drogato. State attenti a queste considerazioni, a questi dettagli. Quel giorno lì, tale Rosario Greco, appartenente ad una famiglia molto discussa, per non dire una famiglia, diciamo, di gente compromessa con la mafia, guidava ubriaco e drogato, è stato condannato dal tribunale di Ragusa nove anni di carcere, amici miei, nove anni di carcere. Cioè, perché avrà un signore, fatto un rito abbreviato, certamente, evidentemente, no? È normale secondo te? È normale? No, non cominciare a darmi spiegazioni tecniche, non mi interessa. L'omicidio stradale non è normale. Se tu per l'omicidio stradale puoi far ricorso al rito abbreviato, evidentemente. Precedenti, evidentemente. Ubriaco, drogato, investito due ragazzini di... No, è gravissimo. Due ragazzini piccoli, credo avessero 11 anni, una cosa di questo tipo. 9 anni di carcere. No, e uscirà presto. Uscirà presto, perché 9 anni con non tutte è una le cose. Consolazione, ma dopo qualche anno uscirà. Dopo qualche anno uscirà. Questo è il punto. Questa è la notizia di oggi clamorosa, col padre che giustamente dice che è un criminale e ci voleva una pena più severa, e come aver ammazzato per una seconda volta il figlio. È una vergogna, e tu sei d'accordo con queste cose qua? 9 anni, tu sei d'accordo con queste pene così leggere, perché tu sei per la redenzione? Tu no, sei no, per il recupero modo, delle no, persone, meno carcere si fa meglio. Chiare. 9 anni generale, è uno schifo. In generale, ma lo dico sul serio, meno carcere si fa. 9 anni quali è reati, uno no? schifo. D'uno che ha ammazzato per due ragazzini perché li ha fare carcere, ammazzati. Secondo me. Ma quello certo che c'entra. Ma spaccio di droga dipende là, se non devi fare carcere. No, dico, meno in generale il carcere deve essere rieducare, ma non lo dico io. Sgarbi sulle cose, dai, sgarbi sui cosi civici, là, quella puttanata che già la stanno lasciando perdere, non formalmente, ma la lasceranno perdere. Già hanno Boccia ha detto la cazzata. Della scorta Sileri non vuoi parlare, niente. Sileri minacciato. Ma che ne so, ma che mi interessa? Niente, non ne vuoi parlare, che ne sai? Sì, a tutti, eccolo qua. Sì, uno viene minacciato, la scorta la danno a tutti, vabbè. Veramente. E adesso è arrivata l'ora dell'assistente civico, o anche del coglione civico, cioè del delatore, della spia, di quello che non si fa i cazzi suoi, come al tempo della Stasi. Ma prendere 70.000 assistenti chiamati civici per un'opera incivile di delazione è ridicolo. È ancora una volta uno Stato confuso, non magari uno Stato di polizia, magari fossero la Germania dell'Est. Sono uno Stato di coglioni, coglioni totali, dal Presidente del Consiglio ai vari ministri. La mascherina è una cosa che serve soltanto alla speculazione di quelli che hanno comprato milioni di mascherine di Stato e private per venderle. Questo è l'elemento, ma all'aperto è ridicolo. E il delatore è uno scemo da prendere a calci nel culo. L'idea di 70.000 spie rende questo Stato uno Stato indegno. Speriamo che a fronte di 70.000 spie ci siano 60 milioni di italiani che li prendono a calci nel culo, e con loro questo governo di idioti che si inventa i 70.000 assistenti sociali. Del cazzo! Imbecilli! Spie! Balordi! Oro! Oro! Quanto oro anale ti dare? È arrivato il momento di ripartire e ora hai bisogno di un nuovo alleato. L'ERP di Centro Software è lo strumento di innovazione necessario per gestire tutti i processi aziendali e ottenere risultati vincenti. Industria 4.0, CRM, supply chain, logistica, pianificazione, gestione finanziaria, e-commerce integrato con l'ERP e tutti i reparti in perfetto collegamento. Centro Software, per ripartire ancora meglio di prima. Centro Software, i migliori ERP per le imprese italiane. La Zanzara. La qualità dell'audio è pessima. Zanzarosi, giornata difficile, eh? Chiamate l'824 0024 o whatsappate il 393 7171 701. Scoprirete che potrebbe anche andare peggio. Sì, io vedo molto negativo. Cristiano Malacrino che si scandalizza mentre cena perché alla Zanzara dicono le sconcerie. Ma se ascolti la Zanzara mentre ceni è come metterti sulla linea di mezzeria in tangenziale e vedere se ti investono. Ma che cazzo state dicendo? Malarma. Buonasera a tutti, è arrivato questo pacchettino per me. Sì. Sono insomma abbastanza emozionata. Pireggia Candida. Ma chi è? Sì, si chiama così, Pireggia Candida. Accolgo con scetticismo la notizia e con rammarico, anzi direi che le sardine si prendono una pausa, praticamente sono finite, morte. Chiusa la Clair, giù la Clair con le sardine, chiude, praticamente. Si chiude una stagione, si chiude un'epoca. Peraltro, hanno fatto perdere Salvini in Emilia Romagna. Un'epoca, amico mio, un'epoca. Un periodo. Ma come quale si chiama? Epoca un periodo, di che cosa? Per cosa saranno ricordati? Per nulla, per il nulla assoluto. Beh, hanno fatto una scoreggia in Emilia Romagna. Ma non è vero, a parte che non è vero, questa cosa qui non è vera. Fase molto una difficile. Una scoreggia nell'universo. Una scoreggia nell'universo, amico. Una scoreggia nell'universo, tra l'altro. Con delle motivazioni assurde, ci sono delle divisioni interne, la gente non mi vuole più come leader, non mi riconosce più come leader, non so che cosa ha detto Santuzzo, là come minchia si chiama, mi fa anche simpatia, per Santori, carità, Santori, mi fa anche simpatia, facevano anche ridere, ci tolgono anche del materiale per le cazzate che dicono, per le banalità assolute che dicono, vabbè, purtroppo ci dobbiamo adeguare. Le hai fatti diventare i tuoi nemici perfetti, persone non che non contavano nulla. Ma non è che non contavano nulla. Tu devi prendere col potere. Tu devi prendere col potere, non con erano chi non conta nulla. Ma quale governo? Quattro ragazzi che sono riusciti a portare in piazza in una fase qualche migliaio di persone e tu te la prendevi con loro. Prendetela con chi conta davvero. Vai da Del Debbio e digli: ma che trasmissione fai? Vai ma da che, Giordano, alzati in piedi. Alzati in piedi e di che cosa. Cosa hai messo potere in piedi, Mario Giordano? Cosa hai messo in piedi? Alzati. Uno quello straordinario baraccone, un stupendo, gest. Un meraviglioso baraccone, quello come gli ho detto più volte. Un meraviglioso baraccone, come gli ho detto. Un meraviglioso circo, uno quello stupendo circo, gli dico, sì, assolutamente. Ma tu devi dire, devi andare lì in diretta. Ma quello io è il potere, ma ti rendi soldi conto? Io non posso essere pagato da voi. Quello. Non posso. Quello scusa, sarebbe un beau geste meraviglioso. Quello ti darebbe veramente, quello ti darebbe credibilità. Ha parlato quello che, no, che per andare da qualche parte non, muove piede, ma se io, non incassa, ma io vado dappertutto, se mi chiamano e mi piacciono i posti ci vado tranquillamente. Tu pagano, dovresti poi alzarti in piedi da Mario Giordano e dire basta, non posso più accettare i vostri soldi. Ma perché? Quello che fate qui mi sembra uno scempio. Ma non è prendi vero e glieli restituisci. Vai da me, da Pier Silvio, dici guarda, io ti voglio, perché è una bravissima persona peraltro Pier Silvio, bravo, e gli dici guarda, non posso portarti perché non credo magari più in quello che faccio. Vai lì con una valigetta e glieli in diretta e glieli restituisci. Questo sarebbe, che non posso più vedere questi bagnini collegati, non posso vedere Rinaldi, no, non ne posso più di questa roba. Vai lì e restituisci i soldi che ti hanno dato. Faresti un grande gesto. Oppure dallo ai cassi integrati. Oppure gira quel gettone di presenza alle persone di cui parli. Agli stessi ospiti di quelle trasmissioni. Esatto. Allora, intanto Saviano è nel mirino dei commercialisti che lo vogliono addirittura denunciare per una frase detta dal signor Fazio. Da che signor follia, Fazio. Che follia. Sentiamo esattamente la frase incriminata ma che follia del signor Saviano. Ma perché? Cosa ha detto di strano? Adesso hai sentito o non hai sentito? Che ci sono ho sentito tutto. E allora, che ci sono alcuni professionisti che sono professionisti nel suggerire le evasioni fiscali. No, ma mi sembra una roba talmente normale. Oh, Mazzoli, non hai capito un cazzo. Non hai sentito l'ho seguito bene. Tutto. Non hai sentito bene. Se l'ho visto, come? Senti. Come fa la criminalità organizzata a trovare i propri clienti? Come sa chi cercare e dove trovarli? A un certo punto, quando un'azienda inizia ad andare in crisi, loro per esempio avvicinano i commercialisti. Quando è il commercialista, quindi la persona di cui ti fidi, spesso ti dice c'è quella società c'è quella persona che è interessata. Vabbè, comunque ragazzi, mi sembra che la cosa sia abbastanza. Ho capito. Lui dice come fanno come fa la criminalità organizzata a individuare certe aziende? Sono i commercialisti che praticamente danno in pasto i loro clienti alla criminalità organizzata. Ci saranno sicuramente. Ho capito, però se uno dice i commercialisti sembra che i primi responsabili siano alleati degli usurai, i commercialisti. Ma è come dire le trasmissioni televisive, ci sono alcune che sono fatte da Mario Giordano, altre che sono fatte da Formigli, ma no, o come dire i giornali, alcuni giornali sono guidati magistralmente dal direttore Tamburini del Sole, altri sono guidati meno magistralmente dal direttore di Libero Vittorio Feltri. Ora, se tutti dicessero ci sono i direttori dei giornali, chiaramente Feltri non rientra nella categoria alla quale faccio riferimento, quindi i commercialisti, perché Capezzone, si arrabbiano. Guarda, ti ammazzo subito con Capezzone, no, uno, Capezzone. Due, tre, senti, no, senti, no, aspetta, no, oggi, no, aspetta, no, no, dai, no. Allora, oggi tre episodi. Ecco, a Pavia un ragazzo di 20 anni sta con la fidanzata, mascherina lui, mascherina lei, a un certo punto lui abbraccia lei, 400 euro di multa. Poi due. Secondo episodio, il prefetto di una città del nord che, riferendosi ai cittadini italiani, noi, voglio sperare non rendendosi conto di riecheggiare uno slogan del terrorismo, dice colpirne molti per educarli tutti. Una fede. Terzo episodio, un ministro del quale non farò il nome ma solo il cognome, Boccia, e che spero si dimetta da un momento all'altro, che dichiara con gli italiani ci vuole un po' di bastone e carota. Ecco, come si dice a Cambridge, ci avete rotto le palle. Come si dice a Cambridge, solita battuta, solo questa fa sempre, solita battuta. Terzo, la fa da 20 anni. Gabriele da Firenze, vai Gabriele. Fa la stessa battuta da 20 anni. Ciao, si buonasera. Dice uno, due, tre, dimmi, prima Gabriele. Conta e poi dice dimmi, Gabriele, dimmi. Buonasera, ciao, niente, io chiamavo perché per la storia un po' degli assistenti civici, è una figura incredibile, è una buffonata per cui giustamente Boccia, che l'ha proposta e adesso va ritirata, perché, si dovrebbe dimettere. Tanto a Firenze il sindaco ha detto di essere contrario, ma non è tanto Firenze, noi siamo, io rappresento una delle società più grandi d'Italia che si occupa di sicurezza, ci sono 5.000 aziende in Italia che portano un PIL di 5 miliardi. Vabbè, adesso non c'entra niente questo però, amico mio, non è ma che, come no? Non è che dovete le guardie giurate, scusa, non è che metti le guardie giurate nei mercati, però. Dimmi. No, tu hai ragione, ma non è che metti le guardie giurate nei mercati. Qui si sta parlando, e ci sono 300.000 operatori in Italia che hanno fatto dei corsi e fanno questo di lavoro. Sì, ma questo non c'entra niente, amico mio. Questo non c'entra nulla. Ma questa è un'altra partita. Questi volevano mettere volontari come i City Angels a Milano. No, ma non dire cazzate. Questi volevano mettere queste robe. Questi prima hanno fatto questa proposta. Hanno fatto questa proposta all'inizio perché ci fossero delle persone che segnalassero alla polizia delle violazioni. Li conoscete i City Angels o no? Noi facciamo questo lavoro a Milano, 365 giorni l'anno, ci sono le aziende ferme, non stiamo facendo niente. Sì, ma questo non c'entra niente, scusa Gabriele. Hai già i professionisti. Ma ho capito, ma adesso tu stai parlando guardando al tuo culo, però, amico mio, cioè guardando a quello che fai, eccetera. Certo, e quale devo guardare? No, ma fai bene, per carità. Ho capito, ma non c'entra niente, non è che uno un concerto, ci siamo noi a fare il filtraggio, prefiltraggio. Ma figuriamoci se uno prende, Gabriele, figuriamoci se uno, un governo assume delle guardie private che fanno un altro mestiere per fare il controllo nelle piazze, ma che siamo matti? In Alta Italia ci sono gli ma quello è un altro discorso. Sì, ho capito, però volevano fare questa roba qua, poi si sono accorti della cazzata pazzesca con le pettorine, della puttanata pazzesca che stavano per fare, e hanno detto no, ma non serviranno a compiti di sicurezza pubblica, eccetera. Ma scusatemi, e noi cosa dobbiamo fare allora? Ma io non lo so. Siamo lì fermi e voi mi state dicendo andiamo a prendere 60.000 volontari per fare il lavoro che già noi svolgiamo, che facciamo tutto l'anno, perché quando facciamo un evento, una fiera, fortuna non è lo stesso lavoro che serve, Gabriele, non è lo stesso lavoro, fermo là. Ciao, siamo le radio italiane tutte insieme per costruire la più grande avventura del 2020. I love my radio. Aiutaci a scegliere la più bella tra le canzoni italiane che abbiamo suonato dal 1975 ad oggi. 45 successi firmati da 45 grandi artisti. I Love My Radio. Tutte le radio unite per l'Italia. Vota la tua canzone preferita su ilovemyradio.it. La Zanzara. Però ragazzi, questo che dice fanculo l'Italia, fanculo la polizia, ammazzo i carabinieri, mi scopo Giusy Ferreri. Parla di violenza, parla di stupri, parla di pompini, parla di ingoio, parla di troie. Parla di violenza, parla di stupri, parla di pompini, parla di ingoio, parla di troie. Amico mio! Parla di troie. Fanculo l'Italia, fanculo la polizia, ammazzo i carabinieri, mi scopo Giusy Ferreri. Fanculo l'Italia, fanculo la polizia, ammazzo i carabinieri, mi scopo Giusy Ferreri. Amico mio! Mi scopo Giusy Ferreri. I mariti devono capire che un cazzo di gomma può assolutamente salvare il matrimonio. E questo strumento deve diventare come una cravatta, un foulard, una collanina, un braccialetto, un piercing. Lo diciamo qui, fuori dal coro, perché altrimenti non ve lo dicono. Luciano, qua la domanda è una sola, ma Pina Pitone, commercialista di Emilia Clementi, ha querelato anche lei Saviano? Come fa la criminalità è organizzata a trovare i propri clienti? Come sa chi cercare e dove trovarli? A un certo punto, quando un'azienda inizia ad andare in crisi, loro per esempio avvicinano i commercialisti. Quando è il commercialista, quindi la persona di cui ti fidi, spesso ti dice c'è quella società, c'è quella persona che è interessata. Quando non è questa strada, perché invece hai la fortuna di avere dei professionisti seri, ci sono moltissime altre strade, le banche, il consulente che ti dice di andare in quel posto piuttosto che in un altro. Perché la mia commercialista Pina Pitone adesso deve mettere un altro codice IBAN. Allora ragazzi, è tornato intanto l'ingegner Negri. L'ingegner Negri, che era un po' scomparso dal nostro, no, dal nostro raggio di azione, cioè dalla nostra vista, è tornato per dire che il virus è sparito. Senti qua. È sparito il virus. Un ingegnere lo dice, eh? Non c'è più niente, non c'è più niente, il virus non c'è più, ma vogliono che noi continuiamo a vivere come se ci fosse, come se fossimo nel mezzo di un'epidemia disastrosa che porta alla morte di milioni di individui. Infatti andare in giro tutti con le mascherine all'aperto nel mese quasi di giugno con 30 gradi è da paese affetto da un'epidemia senza precedenti, invece non c'è niente. Un virus che non c'è mai stato, è stata un'influenza molto più aggressiva del solito e basta, e basta. Sarebbero stati molti di meno se avessero consentito le autopsie, non le hanno consentite perché servivano i morti per poter vivere. Loro vivono sui morti, più morti ci sono e più vivono bene, più comandano, vivono sui morti, il governo che vive sui morti. Stanno reclutando queste persone, non ci andate, siete in pericolo, non ci andate, perché qui è tutto finito, non c'entra più niente il virus. E allora quando voi andrete a rompere i coglioni alle persone, ci sarà qualcuno che vi stenderà, è chiaro, siete a rischio, non ci andate a fare gli assistenti civici. Bye. basta, rompiamo le righe, basta, basta, basta, via mascherina, via tutto, torniamo alle nostre sane vecchie abitudini, non c'è più niente, travolgiamo questa gentaglia che vuole tenere in vita il virus a tutti i costi per poter sopravvivere, non glielo permettiamo, avanti. Allora, posso dirti, David, io sai che non sono mai, no, non faccio mai dietrologia, eccetera, eccetera, però vatti a fidare della scienza. Leggo in queste ore, dopo aver letto 40.000 cose diverse, uno studio che viene, credo, dagli Stati Uniti, in cui si sostiene che le mascherine all'aperto sono dannose. Aumentano mal di testa, insufficienza respiratoria, eccetera, eccetera. E va bene, d'accordo. Altro studio che viene sempre dagli Stati Uniti, da un centro importante, la massima autorità sanitaria degli Stati Uniti, in cui si sostiene che il virus non si diffonde facilmente sulle superfici e che tutto quello di cui abbiamo, no, avuto paura nei mesi scorsi, le superfici, il lavaggio, sono tutte puttanate. Beh, che, no, il lavaggio delle mani, che c'entra le mani? Sto parlando delle superfici, che cazzo c'entra le mani? Sto dicendo che questo centro, che dopo un po' il virus muore, non hai capito ancora. Questo centro, il più importante degli Stati Uniti, sostengono che il virus sostanzialmente sulle superfici, e noi ci hanno un po' terrorizzato anche su queste cose delle superfici, con mille pippe mentali, mille precauzioni, tutorial e puttanate del genere, non si diffonde che in casi rarissimi sulle superfici. Allora io dico una cosa, per carità, non dico che a un certo punto c'è stato qualche ente supremo che ci ha terrorizzato. Ma ragazzi, lo conosciamo da pochi mesi questo terrore, virus. Il terrore c'è stato, amico mio, il terrore c'è stato, c'è stato. Giuseppe, provincia di Macerata, dai, forza. Dai. Ma siete tutti dei virologi ormai, Giuseppe. Ma cosa no, ne sappiamo, è perché di non lo siamo, virus? È perché l'hanno studiato, è proprio perché questi hanno sbagliato tutto e sono diventati famosi prendendo cachet da favola. Che è sto cazzo di rumore, Giuseppe, dai. L'hanno studiato, sì, ecco. E lo conoscono da poco. Dimmi, Giuseppe, dimmi. Niente, io volevo, premetto, sono dottore commercialista, esercito la professione da più di 20 anni, e volevo intervenire sulle frasi ignobili dette da Roberto Saviano. Premetto che già non lo stimo di per sé, ma quello che ha fatto è una cosa assurda. Infamare 120.000 professionisti. Mica ha infamato la categoria, però, scusi. No, l'ho detto prima. Se uno dice che la categoria dei direttori di giornali è fatta di coglioni, uno non è che pensa soltanto a Feltri, voglio dire. Non è che tutti sono della stessa categoria. Ci sono diversi modi di fare il direttore di giornale, no? Ma non è maleducazione. Stavo interloquendo con lei. Parlando di cose diverse, probabilmente non ha nemmeno sentito la trasmissione. Lui ha infamato 120.000 professionisti dicendo che se 120.000? Sei fortunato e trovi quello bravo, quindi il professionista bravo è un'eccezione, allora non ricorri al rischio dell'usura. Parenzo, mi scusi. Ma perché? Io ad esempio, facendo il libero professionista e non essendo dipendente, da 20 anni ho un commercialista. No, ma aspetta, e ma mai ho pensato cazzo, che fosse un farabutto. Allora, il discorso è: il mio commercialista non si sarà sentito offeso, evidentemente, da queste parole. Probabilmente lei non frequenta adesso i siti dedicati a autori commercialisti, quindi non si rende conto di quello che sta succedendo nell'ambito della commercialista con il dottor Saviano. Lei parla con il suo commercialista. Chiederò al mio commercialista. Il suo commercialista. Lei sa che essendo io una partita IVA sento ogni giorno. Ma lascia perdere adesso, chi se ne frega di questa roba? Voglio capire da Giuseppe perché si è sentito offeso da Saviano, perché dopo questa frase, dopo questa trasmissione. Semplicemente perché Saviano ha detto che tutti i professionisti sono collusi con la mafia, tranne che se sei fortunato e trovi quelli bravi. Cioè tu, adesso io la seconda parte non l'ho sentita bene, però ha detto che quelli bravi sono un'eccezione. Adesso questo non... Sostanzialmente le frasi testuali sono: se sei fortunato, ecco, e trovi uno bravo, allora non ricadi in questo. Quindi se io sono fortunato vuol dire non so se la frase precisa sia questa, poi la risentiremo. La prima parte è abbastanza chiara, cioè lui dice in generale i commercialisti segnalano come si arriva ai criminali, alle bande criminali, attraverso i commercialisti. Questo lo dice sicuro. Dopodiché lei risenta all'audio, dirà: se sei fortunato e trovi quello bravo, allora va bene. Vabbè. Quindi vuol dire una categoria messa alla gogna. Le persone sono, Lorenzo, scusi, io quando ma io capisco parla... che lei ma se si è sentito ma se Giuseppe dalla Provincia di Macerata, commercialista, si è sentito offeso da questa cosa, quando a me dicono sei un giornalista quando a me dicono sei un giornalista come Feltri, potrei sentirmi infamato, perché io non sono come Feltri, non faccio quel tipo di giornalismo, non scrivo negri, non scrivo froci sui giornali e quant'altro. Per lei, perché Feltri, che ho avuto il piacere di conoscere qualche anno fa, è per me uno dei migliori giornalisti italiani. E io non ho altro da aggiungere. E io infatti, dopo questo suo intervento, non ho esattamente altro da aggiungere. Direi che lei è viziato dall'ideologia. Direi che lei è un po' viziato dall'ideologia. Ciao. Allora, Stefano da Cagliari, che mi sembra sia quello che... omosessuale, se non sbaglio, che voleva, no, perché lo ha detto lui, anche se poi non l'ha voluto ammettere fino in fondo, non capisco perché ormai il coming out lo fanno praticamente tutti, anzi c'è la moda addirittura di sposarsi, e nel Centro America, non so dove, hanno uno dei primi stati in Centro America l'altro giorno ad aver ammesso, cioè la gente si separa, la gente si divorzia, e ancora ci sono stati che ammettono il matrimonio gay, che va benissimo per carità, però è abbastanza curioso, no? Cioè il fatto che ormai, cioè, il matrimonio è in declino, quello eterosessuale è in declino quasi ovunque, invece ci sono stati che introducono il matrimonio gay come se tutti i gay volessero sposarsi. Vabbè, Stefano, allora non ho capito di che cosa vuoi parlare. Vuoi parlare di Pisello? Ma perché ci sono? Cosa? Ah, sì, sì. Ok. Ci sei, ci sei. Di non essere dimmi, Stefano. Ah, innanzitutto mi dà fastidio che tu presenti le persone come... E arriva la puttana di Brescia, Stefano, esatto, l'omosessuale di Recchia, esatto, non è che l'ho detto in senso negativo, se ti senti omosessuale, ma senti... parlare, no, ma poi... se ti senti colpito perché ho detto omosessuale, no, sono io affari tuoi. Non sono colpito per niente, però tu non puoi presentare le persone con delle etichette, ma quale etichette, ma chi se ne frega, ma lui è abituato a quel giornalismo di mela mela, ma chi se ne frega, Stefano, della mela pera pera, un etichettario, le etichette le mettono i negozianti. Stefano, a me, se tu sei omosessuale, se tu lo prendi davanti o dietro, a me non me ne può fregare di me. Ma non sei merce, ma non sono... ti ha dato una bella pelata. Ma nessuno ti considera merce, amico mio. Tutti nessuno ti considerano merce, puttane, omosessuali. Ma quando mai? Ma quando mai? Invece sì. E vabbè, d'accordo, vai avanti, forza. Se vuoi proseguire, vai avanti, altrimenti non mi rompi i coglioni. Dai, dimmi. No, ti voglio rompere i coglioni. Su che cosa? Non ho capito. Su che cosa? Allora, no, prima volevo chiarire che non volevo offendere i camionisti né i... chi è che ho citato? Non lo so chi volevi offendere, Stefano, so solo che devi andare un po' più veloce, perché sennò noi ci addormentiamo. Scusami, qui lo so, se no ci addormentiamo, capito? Questo è il problema. No, volevo solo... mi premeva questa cosa del fatto che tu, quando ci sgarbi, qualsiasi cosa dica... Ma l'hai già detto questo, l'hai già detto. Volevi parlare più di Picelli. Volevi parlare di... Sì, ma l'abbiamo capito. Verde. Tu lo volevi... tu diresti, va bene, sì, va bene. Tu volevi parlare più di Picelli, giusto? Volevi parlare più. Sì, scusa. No, infatti mi ero... Volevi parlare più di Picelli. In che senso volevi parlare più di Picelli? Spiegami. Volevo parlare... No, questo non so, è venuto fuori Marco da Firenze, diciamo. Ha rotto il cazzo. Marco da Firenze, dai, mi sono rotto i coglioni, Marco. Sì, io volevo chiedere a Parenzo se è invidioso degli emolumenti di Cruciani. Ma no, perché dovrebbe essere invidioso? No, in alcun modo. Beh, è l'altro giorno, ma scusa, l'hai detto te l'altro giorno che Cruciani guadagna 200.000 euro l'anno. Ma non lo so, ma ne guadagna anche di più, ma non è quello il punto. Ha detto vergogna. No, lui dice vergogna perché fai il populista, perché voglio dire, guadagni tanti soldi, però lisci. Posso farti due conti? Fai due conti, Marco. Posso fare due conti? Allora, 100.000 euro. Ma non è aspetta Cruciani, sì, lo volevo spiegare se ci levi la tassazione te ne rimangano 100.000. 100.000 sono circa 8.000 euro al mese, va bene? Bravo, sì. Allora, Cruciani vive a Milano e non a Roma. Milano costa, allora ce le vuoi mettere una ventina di cene? Ma ha ragione, ma cene che non paga mai un cazzo. Vedi, ha ragione Marco. Ma quale cene? Ma no, certo, assolutamente, ha ragione Marco, se diciamo, facendo questi conti qui, uno si accorge che vivere a Milano... Ma sono tutti sbagliati. Ma no, ma è normale. Tutti sbagliati, la casa non la paga perché gliel'ha dato un ente gratis, bisogna capire qual è l'ente che gliel'ha data. Ma lo cominceremo a capire, magari qualche municipalizzata che ha delle cose, gli ha dato questa casetta nella quale sta. Ma di successo, ed è giusto i guadagni, ho detto 26. Ah, io sono d'accordissimo, Cosa c'hai da dire, fa schifo, cosa c'hai da dire? Le separazioni. Fa schifo il populismo che lui fa il figlio, ma chi vede, lui fa il figlio del popolo con il portafoglio fermo bello lì, gonfio, fermo tutto lì, qua. Fermo lì. Fineco, è tempo di investire con noi. Vi presenta La Zanzara. Ma te ne immagini mostri assistenti civici quando svegli che si pigliano? Immagina uno magari piccoletto, perbenista, come in parenza, no? Va vicino al Brasile che sta in piazzetta con Alger, tutto quanto, se stanno a fare uno spritz, ci vai e ci dici: guarda, senta, scusi, lei forse dovrebbe stare un po' più distante, tutto quanto. Questi lo iappano, lo mettono contro luce, ci contano le ossa. Ma dai, no, ma come cazzo si fa? Ma come cazzo si fa a pensare una cazzata del genere? Ma come si fa? Ma te lo immagini un assistente civico che prova a multare Sgarbi? Ciao proprio! Più passa il tempo e più mi rendo conto che la classe dirigente che abbiamo in questo momento è di pippe col botto, cioè è imbarazzante questa idea, cioè soltanto l'idea degli assistenti civici vuol dire che questi non hanno la più pallida idea di come giri il mondo. Gli assistenti civici, cioè, dovranno venire nei bar, nella tremenda movida di cui parleremo tra poco, e quando ci sono due persone che sono a meno di un metro, dicono: scusami, il disoccupato o il pensionato, guarda che tu stai a meno di un metro. Sapete che cosa succede? Io ve lo dico con grandissima franchezza, non me lo auguro, anzi spero che questa cosa sia un flop come i Navigator, cioè le grandi, geniali idee di questo governo di merda. Navigator, assistenti civici, che questa roba qua verranno presi a calci nel sedere. Voi capite che noi abbiamo a che fare con delle persone che la birra non la prendono per la movida, ma ce l'hanno dalla prima mattina, cioè dei tossicodipendenti, degli alcolisti non anonimi, belli, con tutti quanti i nomi. Quando io leggo oggi Boccia che dice alla stampa: ora basta, dobbiamo richiudere le regioni, ora basta, de che? No, ma la cosa incredibile è che il ministro Boccia ha utilizzato dei termini come quelli con gli italiani abbiamo utilizzato il bastone e la carota, e un altro, il prefetto credo di Mantova, che parla di colpirne uno per educarne cento, colpirne cento per educarne tutti, che se l'avesse usati qualcun altro avrebbero gridato al fascismo il giorno dopo, il giorno stesso. Avrebbero una roba incredibile, è lo spirito incredibile con cui uno fa le cose, sì, il senso della storia. Se l'avesse utilizzato qualcun altro, è il senso della storia, se qualcun altro avesse utilizzato colpirne cento, ma che c'entra Casa Pound, che non andrà, paura, che non andrà a governo mai nella vita, dai, ci avrebbe fatto paura sicuramente, dai, perché è importante chi dice le cose, ma al di là di questo, al di là di questa cosa il qua, bastone mi devi la spiegare, carota, ma chi cazzo sei il bastone e la carota? Ma che sei un dittatore, il bastone e la carota? Perché? Ma quello è impazzito, mi spiegare Boccia, perché la l'idea di mettere delle persone che percepiscono il reddito di cittadinanza, ma non fare è solo un questo, perché civico, sai benissimo che non saranno solo quelli, non dire una cosa non voluta è quello dai sindaci, peraltro, ma lo chi l'ha detto, ma chi lo dice, siccome tu, ma se un sindaco di Firenze ha detto che sono inutili, è una buffonata. Ma non dire maggioranza, cazzate, ma non il sai un sindaco cazzo di Bari, che è il presidente dell'ANCI. Ma l'hai verificato? L'hai letta la cosa? No, non l'hai letta. Andate a verificare se il sindaco di Bari, presidente dell'ANCI, non lo voleva fare. Chi se ne frega? Ma è l'ANCI, l'Associazione Nazionale Comuni Italiani, con Boccia. Sindaco di Lucera Tutolo contro quelli della Movida. Senti, io se fossi un medico, e mi arriva in ospedale uno di quelli là, lo prenderei così, mano e piede, lo butterei davanti alla porta, ci vedi tanto cazzo, te ne hai tu, perché tu a quadrini non ci metti più, perché tu non hai rispetto per niente e per nessuno e non meriti assolutamente nulla. Cioè, questo se la prende se arriva qualcuno che ha partecipato alla movida, o qualcuno ubriaco o cose di questo tipo. Questi sono i sindaci, eh? Ma sì, il sindaco, beh, quel sindaco che questo sì spiega perché l'ANCI voleva un aiuto, no, da parte del governo. Coglioni, mamma mia. Se vuoi ricostruire, ma se poi vogliamo soltanto urlare, ma dire cose così, ma va bene, che aiuto, per ricostruire ma come sono andate le cose, sì, vai a sentire vedere il sindaco di Firenze che cosa dice di questa buffonata qua. Vai a sentire, ma chi se ne frega dell'assemblea dell'ANCI, ma chi se ne fotte, ma chi se ne fotte dell'ANCI, come è nata l'idea, come è nata, a spiegare agli italiani cos'è l'ANCI, dicono che cos'è l'ANCI, l'ACI, l'Associazione Nazionale Comuni Italiani, ti dicono, non l'ANCI. Ma non è che tu puoi giocare sulla fatto che la gente non sa un cazzo, però. Ma ricordatevi che chi si è divertito veramente, se è ancora in giro, è il virus, perché ha fatto delle orge pazzesche, ha fatto delle orge indicibili, e lui sì che allora si sarà divertito se è ancora in giro. È come se, ripeto, lo dicevo l'altro giorno, se ci fossero stati i bordelli in Italia, questi avrebbero aperto i bordelli e avrebbero detto di mantenerci a un metro di distanza. Avrebbero avuto questa faccia tosta, ne sono certo. Tu vai nel bordello, perfetto, però devi mantenere un metro di distanza. Che dobbiamo fare necessariamente gli stupidi, che non ci porta nulla, voglio capire, no? Quando ci sta uno addosso all'altro, ma cosa cazzo ti dà? Se ti devi portare una ragazza, non te la puoi portare, quanta cazzo te la puoi portare? Dai, te la puoi portare, si trafì, non mil, che cazzo fai lì in mezzo? Cosa fai là, stupacchino a me? Cosa fai là? Dando i metti in mano piuttosto, quello almeno è un assembramento che ti dà qualcosa, ma questo cazzo di becchino in mano cosa ti dà? Se devi assembrarti con qualcuno, chiama da uno che ti piace e ti assembra, quello magari è un assembramento che da che cosa ti dà? Sto cazzo di becchino in mano la mide che questo la vita bene. No, però questo è straordinario, adesso per chi ha capito il pugliese, adesso non so che cosa, il lucerese o non so quale tipo di variante del pugliese, tutto lo vuole dire, meglio assembrarsi con una donna, appartarsi con una donna, piuttosto che stare in mezzo con un bicchiere in mezzo all'assembramento di persone là, che, vabbè, che è vero, però non sa forse Tutolo che quel tipo di assembramento è preliminare poi all'appartarsi con la singola persona, cioè prima viene il piccolo assembramento dove uno ride, scherza e poi magari si apparta con una, ragazzi, è che vi devo dire. Fabio da Roma, vai Fabio. Non c'è Lorenzo da Udine, vai, anzi Salvatore da Palermo, vai. Ci sono. Dimmi. Intanto voglio smentire Parenzo che dice sempre che chiamano i malati di mezzo, non è vero. Ma chiamano anche le persone. Non tutti, Cruciani, io sono sempre d'accordo con te, però Saviano adesso veramente. Non ho capito, Salvatore, fatti sentire bene perché non si sente un cazzo, dai, dimmi, Salvatore. Saviano, io sono sempre d'accordo con te, ma qua Saviano non ha detto nulla di male. Cioè, ma io non ho detto Saviano, che ha detto qualcosa di male. Spiego ai commercialisti che si sono cazzati. Ha detto che ci sono dei commercialisti. Prendi una posizione. Guarda, posso dirti una cosa? Posso dirti come la penso su questa cosa qua? Ha detto probabilmente una cosa che avviene. Ha sbagliato a dire. Certo che avverrà sicuramente che dei commercialisti, però se tu attribuisci ai commercialisti un canale privilegiato perché è così, ma è chiaro che è così, ha detto il problema è fatto, ma lascia perdere il conduttore che quello è inesistente, lascia perdere il giornalista e non il conduttore, vabbè, ma quello sono cazzi suoi, uno fa quello che vuole, il punto è un altro, lascia dire a Saviano quello che vuole, è una sua tecnica che va benissimo, ha avuto anche successo, il problema non è questo, il problema è che se tu dici come ha fatto Saviano qual è il modo in cui si arriva alla criminalità, cioè in cui uno che c'ha un'attività e tu dici la prima cosa che citi sono i commercialisti, vuole dire sostanzialmente che attraverso i commercialisti si arriva all'aguzzino, si arriva al cravattaro, si arriva non lo so se alcuni. Intanto ha parlato di commercialisti e giustamente i commercialisti dicono: beh, non è che noi siamo messi sullo stesso piano dei criminali, dai. Ma non le categorie sono tutte uguali. Un'altra cosa che volevo dire a Parenzo è che non deve cagare il cazzo con questi assistenti civici che sono dei servi dello Stato. Sono persone che prendono dei soldi dallo Stato, almeno facessero qualcosa. Se tu hai detto che vai a prenderti lo spritz, vai a prenderti lo spritz, ti arriva l'assistente civico e ti dice: devi stare a distanza, gli dai un po' di fuori. Ti sta ricordando una cosa che dovresti sapere. Cosa richiesta dai sindaci per sgravare la polizia municipale, tanto è stata chiesta da tutti i sindaci, da tutto il mondo, che nessuno l'ha fatto. Riccardo da Livorno, ti dai tutti indietro, ma l'idea è nata nell'ANCI, l'associazione nazionale comuni italiani. Riccardo, dimmi. con ciao, il suo presidente. No, scusa, ma Parenzo, sì, sono d'accordo con te. L'assistenti civili, ma secondo te noi abbiamo bisogno, dopo essere stati due mesi in casa, dopo aver perso il lavoro, dopo aver perso il fatturato, il rappresentante di vino, di uno che mi va a dire: oh, guarda, non sta un mese, un metro di lontano da un altro, 1,20 metri di lontano da un altro. Cioè, quindi in Toscana c'è 3 casi e 6 morti, media età 79,8. Ma di che cazzo parli? No, ma è ridicolo, dai, su, è solo ridicolo. Magari anche solo vedendoli ti ricordi che stai facendo un assembramento, ma non tu persona. Scusa, l'assembramento. Ci vuole delle persone che ci dicono quanto bisogna stare distanti. E quindi c'è la polizia municipale. Se dovremmo la gente, alle periotte ci riapriamo la Lombardia. Ma cosa dici? Ma scusa, ma sarà meglio avere, scusami, ma però, sarà meglio blu, avere uno con la questi con le pettorine piuttosto che il vigile urbano che poi è costretto a metterti la multa, no? Ragiona, no? Ci vuole ritornare ma quello alla nostra tutti vita, perché se no, guarda, a settembre ci va a fare tutti, perché quello poi ci vanno in televisione, cosa dicono? Ci dicono grazie dei sacrifici, non c'è un politico che ha rinunciato allo stipendio, si sono suddivisi tutti il 2% per i partiti e non hanno dato un soldo alla salute e alla scuola, e però ci fanno vedere in televisione. Guardate il conto corrente della protezione civile è questo, date i soldi, dateli voi. Vabbè, ma questa è un'altra cosa, amico mio, la cosa fondamentale è questa, che questi signori qua con la pettorina blu non ci saranno, non esisteranno, non verranno istituiti, e se verranno istituiti sarà per 4 cazzate, non quello che pensava all'inizio il professore, il maestro, il Superman Boccia, che pensava che fossero delle persone che con la loro gentilezza ti dicevano, un aiuto, ti dicevano di fornire un aiuto ed evitare aiuto, che la polizia municipale mettesse le multe, peraltro vabbè. Perché se la polizia municipale è in mezzo agli assembramenti è costretta a metterti la multa, no? Fabio da Roma, vai, dimmi. Pronto? Dimmi. Comunque il presidente dell'ordine dei commercialisti si è incazzato, ha detto è gravissimo, stiamo valutando se ricorre le vie legali, spesso lavoriamo sotto minaccia, mettiamo a rischio la nostra incolumità, altro che contigui, mi aspetto le scuse di segnare faccia. Sarebbe sto... come dire i napoletani, io... uguale, ma chi vuol dire? Ma se uno collega direttamente i commercialisti ai cravattari, uno si potrà incazzare o no? Ma è chiaro, chi? No? Ma la sarebbe prima come cosa... se collegassero tutti i giornalisti a Feltri, ma non è così c'entra, per fortuna di guarda Dio. Che comunque stai facendo delle accuse a Feltri gravissime, Fabio da Roma, dai. No, ho detto, è come se tutti i giornalisti fossero come Feltri, non è così. Posso dire che non sono come Feltri? Fabio, posso? Dimmi. Sarà felice anche lui del viceversa. Dimmi, quindi. Allora, dottor Parenzo, lei lo ammiro sempre per la sua obiettività, per la sua ricerca del lessico preciso. Ma non so se è obiettività, sempre. Non so se è obiettività. Vai, no, Fabio, dimmi. Lei sta attento sempre alle virgole e alle controvirgole. Quando ci sono atti di criminalità aspetta sempre di leggere gli atti. Sì. Mi sorprende che questa volta lei non prenda posizione nei confronti di Saviano. La sua accusa in termini di italiano di è Saviano. Stata sec- di aspetta, italiano fammi sentire parlare. Fabio, dai. Dimmi, su, sei un commercialista secca, tu Fabio, sei un commercialista? Esatto, sì. Sono commercialista di Roma da 34 anni. Sì. E Saviano dice i commercialisti. Se lui avesse detto alcuni commercialisti facendo anche nomi e cognomi, ci sono alcuni. Oppure dire ci sono commercialisti nel senso generico. Nessuno avrebbe potuto niente. Lui ha detto ci sono i commercialisti che favoriscono l'usura e questo non è grave di più. Ma questo è abbastanza chiaro. Poi ha specificato, credo. Non mi faccia il discorso di Feltri perché non c'entra niente, non lo voglio sentire. A me lui ha offeso la categoria dei commercialisti. Ma è questo che io non capisco, perché la categoria se tutti si sono sentiti offesi, qualche motivo ci sarà, no? Ci sono dei commercialisti che svolgono delle funzioni alle dipendenze di certo. Giustizia che, e allora perché deve dire che io ma sono non solo un... guardi che io frequento commercialisti da 20 anni, ma se uno come quando ho 25 anni c'ho la partita IVA, scusa, vogliamo... ne ho 44, ho conosciuto parecchi commercialisti, due o tre nella mia vita, di queste discussioni, di queste telefonate sente il suo commercialista se viene offeso o meno. No, però se il punto Fabio, scusami un attimo, il punto fondamentale è un altro. Quando un conduttore fa una domanda, il modo in cui queste imprese qui vengono, in che modo arrivano alla criminalità organizzata, in mano alla criminalità organizzata, e la prima citazione sono i commercialisti, è evidente che c'è un problema, punto, un problema sulla RAI, poi ragazzi io sono per la libertà e Saviano ha il diritto di dire il cazzo che vuole, le azioni giudiziarie, sì vabbè, adesso mi sembra le azioni giudiziarie sono ridicole, tutto si può risolvere, un chiarimento, non mi ha capito, però se io sono arrabbiato, no ma arrabbiato. Certo, ciao Fabio, ciao. We'll be right back. vai Franca, dimmi. Sì, pronto. Dimmi Franca, dimmi, dimmi. Dunque, allora, io sono indignata. Io sento Radio 24 dal primo giorno. Sì, allora Franca. La sento sempre. Sì, sì, allora? Sì, la sento sempre. Dunque? Però ormai penso che sentirò tutto il giorno, sì, e spegnerò quando c'è la zanzara. Oh, finalmente. Perché sono, sarà, sono indignata. Sarà contento Parenzo, non ce ne frega un cazzo, posso dire. Però come me ci sono delle persone che la pensano allo stesso modo. Ma chi se ne frega, allora, Franca, lei è libera, prima, libertà, libertà di dire, di fare quello che vuole. Appunto, allora, finisco di parlare, poi viene pure al telefono, viene pure allora, al telefono. Ha parlato un deficiente, sì, un sì, Mino Sabes, che ha detto che non esiste 100.000 morti che muoiono là, 50.000 che do, tutti così con l'influenza, e quindi non è stato subito, io dopo la radio l'ho ma spenta, quello amica mia, non quello là, quello è, là è un signore che si chiama l'ingegner Negri, praticamente per fare audience si dà la parola, sì, a dei pazzi, dei deficienti, degli ignoranti, esatto, senza pensare, sì, che ci sono degli altri, brava, deficienti che ci credono, allora, e allora, parli con il presidente della Confindustria, è una radio stupenda, sì, ma io bravissima, la zanzara sì, a questo momento non la metto neanche per anch'io, un minuto, io la chiamerò, Franca, io la chiamerò ogni sera, la posso dire, la chiamerò ogni sera, questa qua la richiamo dopo, ciao ciao ciao. Allora è con noi il ritorno, è tornato, hanno annullato la decisione di sospendere le sue trasmissioni, Adriano Panzironi. Dovresti chiedere scusa a Panzironi, Parenzo. Adriano Panzironi, buonasera. Buonasera a voi, a tutti gli ascoltatori. Allora, ideatore di Life 120, Panzana Panzironi. Aspetta, la Panzana Panzironi. Stai calmo, subito ti agiti, eccetera. Eravamo rimasti con Panzironi, che avevano sospeso, secondo me in maniera assurda, perché ci deve essere sempre, al di là dei reati che non sono stati commessi, la libertà di pensiero e di espressione, soprattutto di andare a trasmettere pagando dove uno vuole, che era stata sospesa in quel momento. Il TAR ha invece in qualche modo riammesso in onda, diciamo così, rimesso in onda Panzironi. Allora io dico una cosa, Panzironi, è vero o no che lei con ha detto paletti, è vero che lei può continuare a fare le trasmissioni purché non parli di Covid? Questo voglio sapere da lei. No, assolutamente no, perché il TAR, diciamo che ha detto sostanzialmente che non era possibile sospendere una voce comunque libera, comunque una trasmissione, indipendentemente dal fatto che ci sia una situazione di emergenza. Quello che ha detto nella sentenza è che bisogna, in ogni caso, se si parla di Covid, fare riferimento a quelle che sono le notizie scientifiche, quello che esattamente ho io capito, ho fatto però anche nella mia trasmissione. Sì, però scusami Adriano, no, qui no, il problema è un altro. Qui leggo il TAR rimette in TV Panzironi purché non parli di Covid, niente contenuti, appunto, sulla pandemia che genio. Per me è sbagliato, per me è una follia. No, assolutamente, questo è stato un titolo che ho messo sull'ultimo giornale, ma non è assolutamente così. Io posso parlare di Covid, lo rifarò di nuovo, perché non c'è assolutamente limite alla libertà di stampa. No, ma infatti sarebbe ridicolo se uno dice non c'è limite al delirio, potremmo dire. No, uno si rimette in onda non è stampa, però no, facciamo chiarezza. La libertà di stampa è tutelata dalla nostra Costituzione. Ma anche la libertà di pensiero, di dire la propria opinione sul Covid o su qualsiasi altra cosa. Permettimi, anche la libertà di pensiero non è questo l'oggetto della discussione. E chi lo decide? Lui fa una no, non è questo il tema. Nessuno vuole chiudere la bocca a Panzironi, cioè se la metti sbagli completamente il punto di vista. Lui fa delle televendite. Chiariamo la cosa. Tu vendi dei prodotti, promuovi dei prodotti. Panzironi promuove dei prodotti. Adriano rispondi. Allora, sostanzialmente non è così, perché il Cerca Salute non promuovi non dei è, prodotti? Non compri degli spazi? No, scusami, no, non ti voglio, no, non voglio litigare con te, perché mi hai rotto i coglioni. Voglio soltanto, non, mi, non spreco la voce, voglio chiederti solo una cosa. No, faccia il serio lei. Lei compra degli spazi o no? Allora, le faccio una domanda. Lei è vero o non è vero? Come fanno i giudici? È vero o non è vero che lei compra degli spazi in televisione per dire il cazzo che gli pare? Giustamente, allora, non è vero nel senso in cui lei lo vuole dire. Le voglio spiegare. Allora, il Cerca Salute è un programma di informazione sanitaria scientifica. Quello che noi facciamo è acquistare degli spazi pagando sostanzialmente le pubblicità alle emittenti, ma il Cerca Salute viene messo in onda anche da altre emittenti. Ho capito, però poi lei all'interno poi si vendono anche i suoi prodotti. Ma si vendono dei prodotti in tre minuti, che è una televendita dove io non sono presente. Ho capito, però. Ma non me ne frega nulla se lei c'è o non c'è. Io ho detto una cosa esatta e lei mi ha detto di no. E allora le faccio la seconda domanda. Lei tecnicamente non è televendita, però. E che cazzo è, scusa? Non ci sarà lui che dice d'accordo, non c'è lui che dice d'accordo, ma vende dei pacchetti. Parenzo, lei ha mai visto il Cerca Salute? Ancora. Perché se lei parla così, evidentemente sì, non l'ha mai visto. Certo, perché molte di quelle emittenti che mandano in onda il Cerca Salute li conosco perfettamente. No, ma lei anche ha perché visto in alcune. La puntata del Cerca Salute? Adesso... Lei faccia usciamo fuori da questa discussione. No, la discussione è questa: lasciamo perdere le definizioni televendita, non televendita. Ci sono degli spazi in cui si fa, tra virgolette, informazione, divulgazione, eccetera, sulla salute, sulla dieta, eccetera, eccetera. E poi all'interno, dove non c'è Panzironi, anche se questo è un artificio, si vendono dei prodotti. Per me, lui può fare quello che vuole, può guadagnare tutti i soldi che vuole se lo fa legittimamente. Fino adesso non c'è una sentenza in cui si dice che è un criminale, chiaro, Parenzo? Parenzo, io le cito l'ultima è come se lui comprasse una pagina su un giornale. Ci siamo? No, aspetta, non andiamo, noi andiamo al tecnico. Voglio chiedere una cosa. È vero è come se lui comprasse una pagina su un giornale. Va bene, d'accordo, è vero o no? Si chiama inserzione a pagamento. Ma va benissimo. Allora, in quella inserzione a pagamento lui può dire quello che gli pare. Ma usciamo da questa discussione, non me ne frega niente a me di questi tecnicismi. Nessuna persona normale lo intervisterebbe su un giornale o in una televisione normale. Da centinaia di perché sei un caso giudiziario, sei un personaggio televisivo, sei un personaggio, certo. Chi viene a cena, ci sono trasmissioni che mi hanno intervistato. Ma perché sei un personaggio? Perché sei un personaggio, come direbbe, talmente importante. Che ci sono un milione di persone. Ma è come intervistare la donna baffuta, è uguale, è come intervistare la donna baffuta. Non vuole, dire cazzate, ma lei non sa neanche quello che io affermo, quindi come fa a giudicare da giornalista? Lei fa il cosiddetto giornalista scientifico, ma di scientifico non ha un collega per carità di Dio, collega se lo ripete la querela, per carità, collega niente. Fermiamoci un attimo, allora voglio capire una cosa da Panzironi che non so se sia col viva voce o con l'auricolare per caso. No, sono con il telefonino. È vero o no, Adriano, che tu hai detto l'unico rimedio per affrontare il virus è il rafforzamento del sistema immunitario attraverso l'integrazione e la somministrazione delle vitamine C e D? Assolutamente no. Beh, scusa, quello è un virgolettato della GCOM, però l'unico rimedio. Ma infatti la GCOM è stato sanzionato per questo, perché ha riportato delle affermazioni non vere. Tu non hai mai detto una frase del genere? Allora io ho sempre parlato di prevenzione, ma non di... ho capito, l'alimentazione è un'altra frase. L'alimentazione somministrata e ricoverata in terapia intensiva è criminale perché contenente glucosio. L'hai detta questa? Questo è verissimo, ci sono studi scientifici che lo confermano. Cioè, purtroppo nelle terapie intensive c'è un innalzamento della glicemia dei pazienti e quindi l'utilizzo di sacchi di glucosio, come oggi viene fatto in tutti gli ospedali del mondo, porta e aumenta. Cioè, tu mi stai dicendo che la mortalità del Covid è aumentata anche per tipo di alimentazione che veniva data alle persone in terapia intensiva, o che viene data ancora, anche se in... Viene data ancora, ma non soltanto per i malati, anche per i malati nelle terapie intensive. Certo, ma tu stai dicendo però che i malati di Covid sarebbero stati in un numero più basso, sarebbero stati di meno senza il tipo di alimentazione che hanno ricevuto? Diciamo che allora, quando si va in terapia intensiva c'è una possibilità intorno da 40 al 50% di morire quando si è in terapia intensiva. Sì, sì. Ci sono studi scientifici che dimostrano che invece che dare glucosio, ma dare sacchi di amminoacidi e acidi grassi, riduce sensibilmente la morte quando uno è in terapia intensiva. Non è che lo dice Panzironi, lo dicono gli studi scientifici americani pubblicati. Scusa Panzironi, ma tu credi nel vaccino o no? Non te ne frega niente, lo faresti mai il vaccino contro il coronavirus? Allora, il vaccino è stato una grande scoperta, però bisogna scoprire se effettivamente il vaccino può essere utilizzato per che cosa. Cioè, voglio dire, ma tu lo faresti il vaccino? Il vaccino, secondo te, non ha alcun titolo allora, per parlare vaccini, di queste i vaccini cose. Influenzali questo di signore non, attenzione a chi ascolta, messaggio a chi ascolta. Aspetta, fammi questo sentire. Signore non ha alcun titolo per parlare di vaccini. Ma che c'entra? Messaggio ma per che c'entra? Chi ascolta, messaggio non a pagamento, messaggio non a messaggio non a pagamento, messaggio, fammi sentire, sì, messaggio non a pagamento, molto candida, ma questo lo sanno praticamente tutti gli scienziati che si occupano di vaccini, sì, che i vaccini antistrumentali sono i meno funzionali. perché si va a vaccinare una persona dopo che il, diciamo, la, il virus è mutato molti mesi prima. Ma quindi abbiamo un'inefficienza del vaccino. Dunque tu non lo faresti, tu personalmente Panzironi non lo faresti il vaccino una volta che magari a settembre, ottobre, novembre, non lo so, l'anno prossimo facessero, no, portassero, no, finalmente lui deve solo spremute. Lo faresti o no il vaccino, vende? Panzironi? Ma il vaccino secondo me lo possono fare delle persone a rischio, ma chi non è a rischio e chi ha un sistema immunitario forte, e soprattutto si può pensare di fare un vaccino, prima bisogna però fare un'analisi pre-vaccinale, cioè vedere il sistema immunitario in che condizione è, dopodiché questo signore non ha alcun titolo per parlare di questo. Si fanno molti vaccini e le persone, ma perché consiglio? Non ho capito, tu dici che facendo tutti i vaccini si hanno effetti collaterali gravi e dunque è un problema. Allora, i vaccini possono dare degli effetti collaterali, il problema è che noi abbiamo un sistema immunitario basato su una bilancia TH1 TH2, sostanzialmente è un sistema che è in equilibrio, che però nel caso in cui uno ha una depressione sempre del TH1 è maggior ha una maggior sensibilità ai virus. Se invece Senti, ma tu consideri l'allarmismo sul Covid, che c'è stata una truffa alla luce delle ultime cose che sono venute fuori o no? Cioè, no, ma truffa no, perché ci sarebbe qualcuno che poi ci guadagna, credo che è stato un grande abbaglio generale. Cioè? Diciamo che è stato, secondo me, sopravvalutato come problema e è stato anche affrontato male. Sopravvalutato perché è la medicina che ha sbagliato nell'affrontare questa, cioè, secondo te alla fine è poco più di un'influenza, si rivelerà alla fine con la mortalità poco più di un'influenza. Allora, questo è un'influenza diversa, che ovviamente attiva una risposta immunitaria che può portare le persone in una comunità. E perché sopravvalutato? E perché dici persona che sta parlando non ha alcun titolo per spiegare cose mediche? La medicina ufficiale avesse affrontato questa patologia facendo prevenzione, in che modo? Innanzitutto tamponando tutte le persone appena c'erano. Tu dici con la vitamina C e la vitamina D, dici la vitamina C, la vitamina D. No, quella come integrazione va benissimo, una corretta alimentazione è lo stesso, ma se fossero attivate dei protocolli con i quali si andava, ad esempio, a dare dei farmaci antivirali subito, si andava a ridurre la Parenzo, perché consideri un buffone questa Stati persona? Uniti, perché lo consideri un negli buffone? Stati non Uniti, no, oltre. Come negli lo Stati consideri? Uniti, adesso te lo spiego, te lo dico subito. Negli Stati Uniti, mi pare negli anni 70, quando c'era Reagan, Reagan che correva per fare il presidente degli Stati Uniti, ci fu quella campagna divertentissima. Comprereste mai una macchina da quest'uomo? Suonava pressappoco così quella campagna. Non mi ricordo se è Reagan, vorrei dire una stupidaggine. Comprereste mai qualcosa da quest'uomo che ha appena parlato? Se io curriculum di questa persona, voi non comprereste neppure un pacchetto di biscotti. No, perché c'è le persone che si rivolgono a lui che sono ricoglioniti. Le persone che si rivolgono a lui sono persone deboli che si fanno influenzare dal fatto che questo signore, comprando spazi nelle televisioni private locali, si è guadagnato una sua purtroppo autorevolezza. Lo consideri un buffone? E le persone consideri? Molto furbo, purtroppo. No, una persona molto molto furba. Panzironi, 30 secondi. Che buffone, è tutt'altro, pericolosissimo. Panzironi, non sono pericolosi. A me dispiace che Parenzo, che è un collega giornalista, faccia delle collega un cazzo, ti querelo se dici collega. Collega nulla, collega niente. Sono un milione di persone che seguono questo stile di vita e si trovano bene. E hanno dimostrato, io ho altro da aggiungere, testimonianze con cartelle cliniche che dimostrano che sono persone cartelle cliniche, patologie. C'è questo che maneggia cartelle cliniche. Questo non discutiamo, questo qui che non è medico maneggia cartelle cliniche. Grazie Panzironi. Nella trasmissione mi sembra più il poliziotto cattivo, non mi sembra un giornalista corretto e informato. Grazie Panzironi, grazie. La Zanzara. Via! Da questo canale. Che l'uso di tutte queste sostanze chimiche per decontaminarci farà venire delle allergie alle quali non abbiamo pensato, delle belle reazioni, perché a furia di strusciare tutto con la Madonna, pulire, non pensare che è il disinfettante. Se noi ci mettiamo i guanti e poi con i manti tocchiamo la Madonna, gli lasceremo quello che abbiamo dentro. Io deve andare a Montecitorio a fare bordello. Tutto il popolo dobbiamo andare a fare bordello. Non ci dobbiamo fermare. Dobbiamo scendere nelle piazze con i megafoni, farci sentire, dire non ci stiamo con questi cornuti e fitusi politici. Ave Maria, Padre nostro e Gloria al Padre. Dovete fare anche voi per i vostri figli. Lottare, lottare, lottare. Non vi dovete fermare. Se oggi vi capita che siete a Montecitorio e vedete quel palazzo, vi va di farvi un video e gridare fitusi, cornuti, fatelo. Non dovete avere paura. Di multe accantoniamo, vaffanculo. Ma almeno ci siamo fatti sentire. Conte, dimettiti. Conte, dimettiti. Fermi tutti, Nino da Palermo, ex grillino palermitano, eccoci qui. Amico mio, Peppino, come stai, Peppino? Non c'è male, non c'è male, non c'è male. Ho visto con piacere che finalmente hai tolto i guanti, Giuseppe. Sì, è bene, ragione, non servono un cazzo, sì. Hai capito pure tu che tu stai una pigliata a volo, Giuseppe. Adesso questo non lo so, però insomma. Ormai il danno l'hanno fatto, Peppino. Ora il problema è quanto deve durare questa presa in giro. Dico, secondo te è normale, Giuseppe, che i contagi calano e tutte cose calano, Giuseppe, ancora parlano tutte cose di, a settembre gli alunni e le professoresse e le maestre con se la torna mascherina il virus, ancora, ti voglio vedere se torna malati, Giuseppe. Ti voglio vedere se torna il virus a scuola. Ma cosa vuoi vedere? Ti voglio proprio vedere. Tu sei la barzelletta dell'Italia, la barzelletta. E l'Italia è la barzelletta dell'Europa. Ti voglio la proprio vedere. Dell'Europa. Ti voglio l'unico vedere. Paese ti dove voglio le vedere. Scuole sono rimaste chiuse. E Parenzo lecca il culo a tutti. Ti a voglio Conte, vedere. Alla ti voglio proprio vedere. Speranza, ma ti voglio a Lazzolina. Ma l'ho mai nominata Lazzolina io. Insomma, mica tu Lazzolina. L'hai votata tu Lazzolina. Somaro Dussomaro. Quando eri un grillino rompevi i coglioni. L'hai votata tu Lazzolina. Casalino, l'hai votata tu e la tua minchia di piattaforma Rousseau, tu l'hai votata, tu l'hai votata, cornuto d'un cornuto, cornuto d'un cornuto, cornuto, tu sei esisti grazie a Cruciani, cornuto che non sei altro che un cornuto, l'hai votata tu Lazzolina, l'hai votata, ma sì benissimo, l'hai votata tu Lazzolina, ridatemi Gottardo porca Ronneo, Pacchione, questo però è interessante. Quello... Cioè, interessante che Tramatti, grillino parlamentare, invochi il ritorno dell'altro buffone Gottardo. Questo è ma molto sì, interessante, però. Non ti rendi conto, questo è significativo. Forza, non ho altro da aggiungere. Mi fermo qua. Tutti, mi fermo qui. Conto, caro mio, che mi fermo qui. Non ho l'unico altro da aggiungere. Però Parenzo ti stava replicando dicendo quello che stavo replicando con grande pacatezza. Di dire che tu hai votato gli stessi grillini Lazzolina, io non ho votato 5 Stelle. Lazzolina e tutta Parenzo, quella banda di microchip e micro minchioni li hai votati tu e la tua piattaforma Rousseau. Hai capito o no? L'hai votati tu. Li hai votati. Tu, cornuto d'un cornuto, cornuto d'un cornuto, li hai votati tu e vieni qui a farmi la lezione a me, brutto minchione d'un cornuto. Torna nella tua grotta, vota sulla piattaforma Rousseau e non rompermi i coglioni. Imbecille, non devi replicare, devi stare muto, muto devi stare, devi stare muto perché li hai votati tu. Devi stare muto, muto. Devi abbassare gli occhi, muto, muto, muto. Calmiamoci, calmiamoci un attimo, calmiamoci un attimo. Allora, calmiamoci un attimo. Tu devi abbassare gli occhi, stare muto perché li hai votati tu. Fine, muto, e con gli occhi abbassati, e con gli occhi abbassati, occhi abbassati, occhi che guardano la strada, tu, gli occhi che guardano la strada, tu devi guardare per terra, gli occhi che guardano la strada, muto devi stare, alla piattaforma Rousseau, l'hai votata tu, la piattaforma Rousseau.

per sbattere in faccia le cose alle persone. Ma certo, la realtà, la realtà, la realtà. Scusi, Freccero, vuole spiegare, Freccero vuole spiegare a questa signora. Aspetti un attimo, Freccero, scusi, vuole spiegare a questa signora che cos'è la realtà? Lo spieghi un attimo che cos'è la realtà. Naturalmente la nostra. Io la mia età non lo so. Aspetti, aspetti un attimo che Freccero deve spiegare che cos'è la realtà. Naturalmente la nostra telespettatrice, naturalmente. No, radio ascoltatrice. Deve... No, esiste solo la televisione, dai, la radio, la parola, dai, non si vede l'immagine, brutto ormai, superato. Vabbè, la nostra telespettatrice naturalmente deve cominciare. Voglio dire, aspetti, lasci parlare Freccero, lasci parlare Freccero, che cazzo, un attimo. Deve capire la nostra telespettatrice che noi dobbiamo raccontare il paese, la realtà, la violenza, naturalmente. Esatto. E quindi sentire questo grido di dolore di questa vecchia, di questa signora, naturalmente. Naturalmente, e questo fa ascolto. Allora l'indignazione, benissimo. L'indignazione funziona. La rabbia. Aspetti, lasci parlare dottor Freccero. Che cazzo? Mi lascia dire una cosa. Ma che cos'è? Lei è un virologo. Mi lascia per piacere dire una cosa. Dai, la rabbia tiri fuori. La rabbia, quella è la realtà. Ma io sono una persona contenta, felice. Ma allora non fa ascolto. E allora ha sbagliato tutto. Deve guardare Montalbano lei allora. E guardi Rai 1 allora. E allora si deve guardare Rai 1 lei. Ma lasci parlare Freccero. Non interrompa Freccero. Ma non interrompa Freccero. Basta, io Freccero. Io sono franca e lui è Freccero. Un attimo, un attimo. Ma dai, ma che. Ma allora cosa? Questa io voglio sentire la rabbia della vecchia. Voglio sentire naturalmente. Dalla mattina alla sera. Ha detto che vuole sentire. Poi la vostra trasmissione spesso, anzi quasi sempre. Non fa ascolto più, non funziona, noiosa. Parla come Brusaferro. Perché non è sbattendo in faccia le cose che diventano interessanti. Le cose non importa sbatterle in faccia. Aspetta, Nina che fa la morale. Che hai detto? Parla come un virologo. Aspetti un attimo. Ma sì, la nonnina che fa la morale. Dai, non funziona più. Su. Allora ragazzi, non ce la posso fare. Allora, io direi di chiamare per una cosa un po' più seria il padre di quei due ragazzi. Ma perché Alessandro... non chiamiamo Palamara, scusa? Chiamiamo il dottor Palamara. Facciamo un piccolo focus sulla questione, della magistratura. A proposito di magistratura, Alessandro D'Antonio, padre di Alessio, il bambino ucciso da un SUV un anno fa guidato da Rosario Greco, che ha preso solo 9 anni, è morto anche tempo dopo il cugino di Alessio. Due bambini morti, 9 anni, incredibile. Il padre sarà un po' incazzato. Chiamiamo. Pronto? Alessandro? Sì, con chi parlo? Buonasera, mi chiamo Giuseppe Cruciani, chiamo da Radio 24. Buonasera. Buonasera. Senta, mi scusi per il momento che non è certamente dei migliori, però volevo chiederle come ha preso questa notizia di questa condanna. Malissimo. Immagino. No, non mi credevo che andava a finire così. Questa non è giustizia. Ma io sono dalla sua parte, penso che dare 9 anni ad una persona che ha ammazzato 2 persone è già una follia, ma in più questa persona nelle condizioni in cui era ancora peggio, se volendo, no? Certo, non sono preso il dubbio, non è accettabile il gesto come è stato fatto, non è accettabile, perché non è che un incidente stradale, sì, certo, questo qua, questo è un omicidio. Uno che viaggia così folle nella stradina di città, di questo paesino, in quelle condizioni che si trovava, drogato, tossico, con le armi nella macchina, con le persone che frequentava, ma sappiamo tutta la storia comunque ormai, no? No, certo. Allora io magari pensavo che il giudice la pensava diversamente del pubblico ministero, già è stata pesante accettata il rito abbreviato. No, ma già quella è una follia italiana, uno che non in un incidente stradale, ma nelle condizioni in cui era, a velocità folle, mette sotto 2 persone, ammazza 2 persone, 2 ragazzi, no, certo. E il rito abbreviato però dovrebbe essere escluso. Che ora sia arrivata più velocemente la condanna, no? Anche vabbè, peraltro. Già era difficile accettare lui non questo, può poi... fare nessun tipo di appello. È difficile accettare quella del pubblico ministero che hanno dato la massima condanna, perché la condanna, come visto che loro hanno applicato incidente stradale, da 18 anni. Sì. Per un caso così simile a questo qua, cioè quello che è successo, di persone, ripeto, che non era una persona normale e non era giusto fare quello tipo di processo. Pure secondo stiamo me. Parlando di vite umane, stiamo parlando di vite umane, due bambine, così non è giustizia. Ci stiamo condannando noi stessi, anzi ci hanno condannate lo Stato e il giudice. Cioè, lei dice che è come se suo figlio fosse morto per la seconda volta? Sì, sì, noi abbiamo due date, una è l'11 luglio e ora è il 26 maggio. Incredibile. Cosa si può fare adesso? Perché questo qua 9 anni, in realtà, diciamo la verità, non se li farà mai, ne farà anche meno, no, con gli sconti, no, di pena. Certo. Cioè, se questo, perché lui va in appello sicuramente. Se questo qua esce dal carcere tra pochi anni, tu che fai? Ma guarda, quella è una cosa che si vedrà. Non la dico, si vedrà. No, ma sicuramente non starò zitto. No, no, assolutamente zitto, no. Ma zitto. Dobbiamo andare avanti. Ma hai fiducia o no? Cioè, perché è difficile avere fiducia in una giustizia che muore il figlio, muore il nipote, dopo, ma muoiono tutti e due, bambini piccoli, uno drogato, diciamo, ubriaco, quello che ha percorso quella strada a una velocità folle, è risultato 9 anni. Cioè, 9 anni con due vite umane. Cioè, no. Sono non quasi... si può accettare, non si può accettare una cosa del genere. Ho fiducia che si possa cambiare questa cosa o no? Io non ce l'avrei, però non lo so, magari lei sì. No, io non ce l'ho, e voglio che me la dimostrano le cose. Oggi come oggi non ce l'ho più. Che la legge dice che un massimo è 18 anni, per questo caso era 18 anni. Allora dovevano capire che dovevano dare il massimo della pena. Erano 12 anni, ok, 12 anni, e oggi non ne avrei parlato. Io chiederei l'ergastolo. E come è stato fatto di persone, ripeto, figli di mafiosi, loro sono prepotenti del paese, minacciavano le persone sulla guida, chiedo a lui così, perché tu che non dai la precedenza, lui usava i mazzi da baseball. Usava. Come tu non devi la precedenza, lui ti menava con i mazzi da baseball. E poi c'è prepotenza sulla città. Il giudice vuole che esce presto, così diciamo riprendiamo a fare queste cose. Addirittura? Certo, io lo penso così oggi come oggi. Cioè tu oggi pensi che lui è stato condannato a 9 anni semplicemente perché la famiglia è mafiosa e dunque i giudici hanno paura? No, io questo non lo posso dire, però lo posso pensare. Puoi pensare che questa famiglia sia influente da avere condizionato i giudici? Ma guarda, cosa ti fa pensare una cosa del genere se tu ti metti di fronte oggi come è stato il processo? Cioè, non ha lasciato neanche la parola del pubblico ministero. Vabbè, io ti abbraccio e cerchiamo di... Che te devo dire? Cioè, 9 anni, uno figlio, figlio e nipote morti. Uno, 9 anni... Esatto. No, non si può accettare. Ma che gli vuoi dire che gli vuoi dire a questo qua? Digli qualcosa. Cioè, digli qualcosa per A lui. Lo incontreresti o no? No, assolutamente. L'unica cosa che gli dico io è che si prenda una corda e se lui sa cosa deve fare. La soluzione migliore per lui. Che si deve impiccare in carcere. Ma cosa vuoi che gli dica? Secondo te si è pentito? Adesso non mi ricordo che cosa è uscito. Si è pentito? Ha detto qualche cosa? No, non sono le persone che si pentono. Ciao, a presto. Vanno a pentire all'altra, ragazzi. Fineco, è tempo di investire con noi. Vi presenta La Zanzara. Got the world, boys, it's how you make it. You have the choice now, you wouldn't take it. The oldest job, only the best for you. Brasile, usa i muscoli per qualcosa di buono. Dai una mano sulla salaria a Susanna. Fai qualcosa di buono. Porca troia, fai vedere sempre i mutagli. Vai là e metti a posto qualcuno e fai lavorare quella ragazza. Dai cazzo, Brasile. Porca troia. Mi confermo, magari sono le 8. Questa stava a dormire nuda dentro al letto. Perquisizione per tutta casa, raga. Io stavo a dormire, ho aperto la porta. Mi faccio così, stavo tutto con un occhio incollato. Apre la porta. Se piomba dentro fa polizia. Sguaina la pistola, comincia a girare per casa e fa tu. Aspetta, che è successo? È giusto però, eh? È giusto. Che è giusto? Dire le parolacce in un luogo pubblico. Quando ho lavorato hai detto una chiesa, signor. Io mi sono fatto papà oggi. Vabbè, dai papà, andiamo che ho voglia di mandare a fanculo qualcun altro. Ti scarico tutte le nuove cucine, Madonna, allora fatte una fa. Menaglie. E però sì, è vero. Il padre. Portate via, signore. No, se no tocca scioppetta a tutti qua. Non ti permette più.